Bravo. Informazioni che riguardano quello che hai capito. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano questa sera a Lecco dalle ore 21 al Palaoratorio di Ozzono. Ecco. Bene. Quindi questa sera Lecco. Ecco. Venerdì 8 settembre alla discoteca Ayers Rock One, Lamezia Terme, Catanzaro. Sabato 9 settembre alla discoteca 24.000 Baci, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina, Latina. Gigi D'Agostino! stai ascoltando i passi, passi, passi, passi, passi, del cammino, del cammino di Gigi D'Agostino. A finire il vocalist. Chiamalo un po' che c'è da lavorare. Il Cammino e Gigi D'Agostino la prossima settimana saranno in Sicilia. Venerdì 15 settembre, discoteca Coconut, Capo d'Orlando, Messina. Sabato 16 settembre, discoteca Flexus, Messina. Se ti vuoi informare, qui c'è un numero da chiamare. A cosa? 339-7100-422. Li vedi? 339-7100-422. Preciso. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Stop. e sono qui apposta. Dai Gigi, fammi sentire sta bella ragazza, e vai. Dai un po' sulle mani. Dai un po'. Del cammino balla Gigi D'Agostino, questi passi D'Agostino sono Gigi del cammino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino, passi passi del cammino. Questi passi del cammino sotto Gigi D'Agostino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino, questi passi D'Agostino sono Gigi del cammino, passi passi del cammino, tu sei Gigi, tu pulmino, questi passi del cammino sono anch'io, eh. Abbassa lo sguardo, abbassa lo sguardo. Lavora. Libera la mente. Dimentica perché. Apri le tue ali e vola via con me. Libera la mente. Dimentica perché. Apri le tue ali e vola via con me. Agoso. D'Agostino. Fammi una mixata, va. Il vocalist, per favore. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano questa sera a Lecco. Dalle ore 21 al Pala Oratorio di Oggiono. Ecco. Questa sera Lecco, Lecco, Lecco, Lecco, Lecco. D'Agostino vi aspettano venerdì 8 settembre alla discoteca Ayers Rock One. Ayers Rock One. Lamezia Terme, Catanzaro. Sabato 9 settembre, 9 settembre, sabato 9 settembre alla discoteca 24.000 baci. Baci. Latina. Latina. Don't be off, I'm don't be off, I'm don't be off, I'm don't be off, I don't be off, I'm don't be off.

Per me amore vuol dire aver incontrato te. Dove è andato a finire il vocalist? Chiamalo un po' che c'è da lavorare. Il Cammino e Gigi D'Agostino la prossima settimana saranno in Sicilia. Venerdì 15 settembre, discoteca Coconut, Capodorlando, Messina. Sabato 16 settembre, discoteca Flexus, Messina. Se ti vuoi informare, qui c'è un numero da chiamare. La cosa 339 71 00 422. Le tristezze non sono eterne quando procediamo verso quello che abbiamo sempre desiderato. Quando procediamo verso quello che abbiamo sempre desiderato. Tratto da Monte 5. Paolo, quello che scrive. Spettacolo questa. We'll be right back. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, la prossima settimana saranno in Sicilia. Venerdì 15 settembre, discoteca Coconut. Sabato 16 settembre, discoteca Flexus. In console, Gigi D'Agostino. Poeta, pittore, poeta, pittore, poeta, pittore, poeta, pittore. Daniele Mondello, che spacca il tuo cervello. Spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello. Ogni giorno alle 18 grida forte il nostro motto. Ma che è? La sua cassa esplode dentro, di Gigi è il momento. Di Gigi è il momento. Sei sintonizzato sulla frequenza della benevolenza. M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mi strapiace una cizza. Ti amo. Sono per tutto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Tonight, Ma che è, oh? Ciao e grazie.